Sì, sto sviando, perché la guardo un po' troppo spesso. E nemmeno con la coda dell'occhio. No, no, questa la guardo proprio. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È venerdì, è 25 febbraio, è il 2011. Sono le 4 e 7 minuti, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla collina che degradava, verso la città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi, sembrava latitante dentro il suo corpo. Ecco i quattro ciliegi che fiancheggiavano il vialetto oltre il cancello appena accostato. Ecco i due faggi che svettavano di molto oltre il tetto scuro e lucido. I muri erano sempre candidi, senza macchie né fumosità, non stinti dalle violente piogge degli ultimi giorni. Tutte le finestre erano chiuse, a catenella, visibilmente, da lungo tempo. Io non sono uno che rilegge i libri. Cioè già mi capita difficilmente di finire un libro intero. Spesso arrivo a pagina 180 o 130 e ho capito che quel libro va in una direzione e dico va bene, posso leggerne un altro. Poi però ci sono dei libri che a volte nella vita capita di riprendere in mano. Questo è uno di quelli. Questo è uno di quei libri che spesso ti danno da leggere a scuola, alle medie, se è particolarmente illuminata la professoressa, oppure al liceo. Nel mio caso poi a maggior ragione te lo danno da leggere, perché vengo dal Piemonte e l'autore di questo libro veniva dal Piemonte e questa storia è ambientata in Piemonte. È una storia che ha a che fare col dopoguerra, con la resistenza, coi partigiani e soprattutto con l'amore. Ecco, quando capita di rileggere un libro più volte nella stessa vita, nella nostra, è perché quel libro evidentemente ha qualcosa da dirci, o forse semplicemente non riusciamo a capirlo quello che vuole dirci. Io credo di non aver ancora capito che cosa mi ha detto questo libro e forse lo rileggerò. Se però vi è capitato, se vi capita, di rileggere magari periodicamente lo stesso libro, se l'avete fatto di recente, se magari lo state leggendo in questo momento, se siete in casa o in ufficio o anche in macchina e avete sotto mano quel libro lì e avete voglia di dirmi che libro è e di leggermi un passaggio, 800240024. Oppure gli sms al 349-238-6666. Enrico si è letto due volte Il Conte di Montecristo. Mauro, due volte 100 anni di solitudine. Mentre leggeva il libro misterioso, la storia gli svaniva davanti. Chiara ha letto due volte Che tu sia per me il coltello di David Grossman, perché Grossman sa raccontare alle donne e perché quella storia è stata anche un po' la mia. Luca si è riletto due volte l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Ogni volta che lo apro, magari una pagina a caso, è come se fosse la prima volta. 800240024, sarebbe magnifico se voi aveste in mano quel libro in questo momento, magari un libro che ha la vostra età, o non proprio la vostra età, però quasi la metà della vostra età, perché l'avete preso anni fa e lo tenete in un posto dove sapete di trovarlo sempre, ogni volta che avete bisogno. Magari anche non un libro che avete proprio riletto integralmente, però che semplicemente rileggete in qualche passaggio. 349-238-6666, 800240024. Jonathan mi scrive: io leggo poco, nel senso che capita quasi sempre che dopo 50 pagine mollo. Fortuna che c'è qualcuno che ha il coraggio di dirlo. Ma quando arrivo in fondo, poi so tutto a memoria e vedo parti del libro dappertutto. Jonathan, questa credo sia una patologia, comunque, cioè ha a che fare, come al solito, con la follia. Il più letale di tutti è stato Money di Martina Mee, soprattutto una scena in cui il protagonista, aspirante regista, si fa umiliare a tennis con un produttore che potrebbe dargli un sacco di soldi. Elisa ha letto due volte Ada di Nabokov, cita due pezzi: la sensualità è il miglior terreno di coltura di errori fatali. E un altro pezzo ancora è: il suo avvicinarsi precipitoso e solitario consumò a ritroso gli anni della nostra separazione. Una volta parlavo con un regista teatrale che mi disse che lui legge Amleto e fa Amleto una volta ogni 7 anni, perché ogni volta che lo rileggi Amleto ti racconta una cosa diversa. Credo che questa sia una boiata in assoluto, però credo che sia capitato a diverse persone di rileggere Amleto, anche solo dei pezzi, non per forza ogni 7, chissà perché poi ogni 7 anni, eh? Antonio, perché ogni 7 anni ti devi rileggere sto benedetto Amleto? Perché ogni 7 anni ti dice qualcosa di diverso? Perché forse, perché forse si era diviso la vita in 7 anni ogni 7, come i cani, giusto? Cioè che un anno nostro vale 7 dei cani, è il contrario. Serena, Le intermittenze del cuore ho letto due volte, di Eugenio Borgna. Mazza, Jonio Borgna è uno psichiatra, lo so solo perché è medico all'ospedale di Novara. Margherita Dolce Vita, tutta la prima parte, e Oceano Mare, la lista è lunga. Serena evidentemente legge pochi libri ma li ripete in successione. Probabilmente ho letto più di una volta Il maestro e Margherita di Bulgakov, ma anche tantissimi altri, da quelli di King a quelli di Orwell, da Platone a Carroll, e la lista prosegue. Ma non credo fosse così comune rileggere più volte gli stessi libri. Claudio mi scrive: e nello stesso istante in cui seppe, cessò di sapere. Il suicidio di Martin Eden. Credo di non avere mai letto nulla di più asciutto e terribile. Letto, riletto, letto e riletto ancora. Vorrò averne il coraggio quando servirà. Ella. Claudio, magari anche non servirà, no? Non è che per forza arriverà il momento in cui ti dovrai suicidare. Se l'hai deciso, ce lo dici, veniamo lì a farti compagnia. Emilio, La verità nel ghiaccio. Forse non è un gran romanzo per molti, ma per me è una storia bella e piacevole da leggere. Ma il più bel libro letto è Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Vabbè, non è il più bel libro che hai letto che mi interessa, è quello che hai riletto più volte. E devo dire, proprio tutta la mia ignoranza, La verità del ghiaccio non ho assolutamente idea di cosa sia, ma Viola Bottoni immediatamente lo andrà a cercare. Si parla di libri letti e riletti. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Mi sa che questa settimana verrà anche per me il turno di rileggerne uno. Come tutti i luoghi in cui sono stato, anche nella biblioteca c'è una ragazza che guardo più spesso degli altri. Ma non lo faccio con malizia, o almeno credo. Semplicemente lo faccio. È un po' come quando passi a fianco ad un incidente stradale e non vuoi guardare quello che è successo. Fissi la strada dritto davanti a te. E intanto di fianco si muovono luci blu, persone con tute arancioni. Sai che una parte del tuo occhio sta registrando tutto. E per non vedere realmente quello che accade, tu dovresti togliere una mano dal volante e coprirti quell'occhio. Però non puoi farlo, sennò causeresti un altro incidente. Insomma, certe volte non puoi non vedere. Me l'ha insegnata Arancia Meccanica. Avete presente il pezzo in cui i dotti medici e sapienti obbligano il protagonista, Alex, ad osservare le peggiori schifezze? E lo fanno tenendogli gli occhi aperti per forza. E se non chiudi le palpebre, devi guardare. Loro lo facevano per redimerlo e alla fine lui prova disgusto e la smette di fare il bambino cattivo. O quasi. Vabbè, in ogni caso, ci sono cose che non puoi non vedere. E io forse la sto facendo più lunga di quella che è. È che c'è solo questa tipa che attira il mio sguardo. Non so come mai. Perché non è bellissima. Ha qualcosa. Lei studia tutto il giorno medicina. Questo lo so perché chiede i libri in prestito. Come facevo anch'io. Solo che lei non mi pare voglia sapere cos'è l'esofagite da reflusso. No, io credo che lei sia una studentessa vera. Una che un domani salverà le persone trapiantando polmoni oppure metterà dei cateteri, non lo so, che forse poi è un po' lo stesso. Vorrei aver avuto io la sua costanza quando studiavo. Avrei speso 2 anni di meno per laurearmi. Lei è una macchina. Il suo aspetto è abbastanza normale. È mora, capelli un po' mossi e poco curati. Non è appariscente, occhiali da lettura, nessun gioiello e pochissimi sorrisi. Mette sempre dei jeans e maglioncini colorati. Non assomiglia a Natalie. Che poi, anche questa storia non l'ho capito. Cioè, perché a uno dovrebbe piacere sempre solo un tipo di donna o di uomo? È un po' come dire che ti piace mangiare però preferisci solo un tipo di cibo, tipo solo la pasta asciutta o solo i polli allo spiedo. Non è detto, no? Magari a una donna può piacere Javier Bardem ma anche Brad Pitt, no? È uno grosso e scuro e grezzo e l'altro biondino, perfettino e con chissà quante personalità. Eppure non è che una donna a cui piacciono tutti e due può essere strana, no? Capita. Eppure si sente spesso dire che uno deve avere un tipo. Vabbè, comunque sì, lo so, sto sviando. Sto sviando perché mi imbarazza questa tizia che bella non è e che quando fa una pausa dallo studio non va a fumare. Fa un'altra cosa. Lei cambia sedia e prende in mano un altro libro e comincia a leggere romanzi. Sto sviando perché la guardo un po' troppo spesso e nemmeno con la coda dell'occhio. No, no, questa la guardo proprio. Ma non mi spaventa la destinazione. Prendi le valigie e si parte amore. E non ti accontento di una notte bianca. Meglio la cicala che d'estate canta. È giusto darmi fiducia. Me la merito. Sono un uomo con molte tentazioni, ma anche tante virtù. Cioè, se prendo un impegno, lo porto a termine. Se prometto qualcosa, la mantengo. Quindi se sto con una donna, sto con lei e basta. Almeno posso guardare, però, no? Ecco, mi sono chiesto questo stamattina. Mi sono detto di sì, che potevo guardare. La dottoressa dei capelli scuri e gli occhiali da lettura è passata da me per chiedere in prestito un libro. Abbiamo parlato un po' e ho scoperto che ha anche una voce molto gradevole. Forse per questo che la guardavo. Forse dentro di me sapevo che aveva già questi suoni melodiosi e che parlare con lei sarebbe stato bello. Ecco, questo crea un problema, perché per sentirla ancora, quella voce, dovrei entrare un pochettino più in confidenza, che è una di quelle cose che non dovrei fare, perché potrebbero essere fraintese. Ha un sorriso sfuggente e non ti guarda dritto negli occhi, lei, però è gentile e simpatica. Mi ha chiesto Il giovane Holden, di Salinger, quel libro che hanno letto più o meno tutti i ragazzini. Tipo Siddhartha, no? Quel libro che se lo legge uno che ha una sorella minore piange, e se lo legge uno che ha un fratello maggiore piange anche lei. Gli altri non lo so, forse sono quelli che lo capiscono meglio quel libro. Quell'edizione lì è in Audi, della collana degli struzzi. Mi ha sempre fatto ridere come idea. Dico, chissà che è venuta l'immagine di un uccello che nessuno ha mai visto dal vivo, o quasi più o meno, insomma lo struzzo, per una collana di una delle case editrici più prestigiose d'Italia. Ha una bella copertina, semplice, con un quadrato azzurro su uno sfondo bianco. E a me è venuto da ridere quando l'ha dato quel libro, non per il titolo, ma perché lì, quel libro lì, lo aveva già riconsegnato ieri. Cioè, lei lo aveva tenuto per 2 settimane e ieri lo aveva restituito. Cioè, l'aveva letto, l'aveva finito. E oggi lo riprendeva di nuovo. Io di solito cerco di stare lontano dai guai e sono una persona di cui è bene fidarsi, però glielo ho dovuto chiedere. Ma scusa, ma come mai riprendi lo stesso libro che ha restituito ieri? Non l'avevi finito? Ecco, lei mi guarda un po' di traverso, come se l'avesse chiesto quante volte aveva commesso adulterio nella sua vita. Mi ha mostrato anche un po' di disprezzo. È stata un po' zitta, mi ha fissato, che la cosa più imbarazzante che potesse fare. Io sono diventato rosso e ho cominciato a sudare. Mi sono reso conto di quanto delicato sia il lavoro del bibliotecario. Un po' come il giornalaio, no? Cioè, pensate se il vostro giornalaio, davanti a uno che compra il manifesto, ad esempio, prendesse i soldi e dicesse: eccoli qua, i soldi del proletariato, come andiamo stamattina, sciopero? O che quello che compra il giornale dicesse: salve, ecco il suo resto, niente bunga bunga oggi? Ci sono lavori in cui ci vuole discrezione, e anche se non lo credevo, il bibliotecario è uno di quelli. È un po' come un analista. Lei, dopo avermi squadrato per un bel po', ha preso in mano il libro ed è stata anche gentile con me, perché mi ha rivolto ancora la parola prima di andarsene. Mi ha detto: sì, l'avevo finito, è solo che mi è tornata voglia di leggerlo. E allora sai cosa faccio? Questa storia qua, la storia di Holden Caulfield, che scappa dalla scuola e va a trovare la sorella Phoebe e poi si chiede dove vadano a finire le paperelle della gatto di Central Park quando l'acqua è ghiacciata, io me la rileggo. Così magari ci capisco qualcosa stavolta. Sì, sarà il mio fine settimana. Otto 00 24 00 24 349 238 6666. Sono sempre gli stessi e cerco di cambiare semplicemente il modo in cui dirli, perché ho paura siano noiosi. Potrei cambiare, non invertirli e vedere se ve lo ricordate. I libri più riletti sono La morte di Ivan Ilic e Il nome della rosa, incredibilmente sempre piacevolissimi. Pasquale da Firenze. Paolo invece mi dice: ho riletto più volte Il piccolo principe. Ogni volta sono tante, mi serve per evadere. Ho letto 135 volte le prime 18 pagine di L'uomo che sussurrava ai cavalli. Mi sono sempre addormentato alla 18ª pagina senza mai riuscire a superarla. Antonio, la spiegazione è molto semplice, perché L'uomo che sussurrava ai cavalli è un libro da donna. È facile. È inutile raccontarsela. Ci sono libri da uomini e libri da donne. Sì, adesso mandatemi messaggi per insultarmi, ma è così. L'uomo che susurrava i cavalli, credo l'abbiano letto in due uomini. Uno è quello che l'ha scritto e l'altro è il suo editor, evidentemente. Se l'ha scritto un uomo, forse una donna l'ha scritto. Non lo so, vabbè, dai, non mi infilo in quel ginepraio. L'unico libro che ho riletto in vita mia è Narciso e Bocca d'Oro di Herman Hesse. Sto leggendo I fratelli Karamazov. Adesso che lo sto leggendo mi sembra che la prima volta non ho capito niente. E secondo me, guarda, è anche probabile. Non perché tu non l'abbia capito niente, ma perché, figurati, io sono arrivato alla pagina 20. Oceano Mare. Eh sì, perché ogni volta che lo leggi alla fine è così, come dice Antonio. Dovresti rileggerlo ogni 7 anni, secondo me, Fratelli Karamazov, perché ti racconta delle cose diverse. Oceano Mare, almeno 4 volte. Ogni volta mi concentro su un personaggio e ne esce una storia nuova. Ciao Sara. Sara, lì perché va ricco, è bravo ed è soprattutto furbo. Rileggo frequentemente I promessi sposi. A questa, guarda, ma non ci credo manco se mi dici che fa il professore proprio. Michele, ho riletto più volte Va dove ti porta il cuore di Coelho. No, allora Michele, cioè, se l'hai riletto più volte avrai scoperto, primo, che non è di Coelho ma è della Tamaro, secondo, non capisco perché devi averlo riletto più volte. Anche, no, non so se è per donne. Bonini, non suggerirmi cose che poi un anno sull'altipiano, quando racconta dei due fanti che prima dell'assalto si posizionano il fucile sotto il mento e tirano il grilletto, è una descrizione micidiale, letta e riletta un sacco di volte. Gaetano, certo, Un anno sull'altipiano è chiaramente da uomini. E chiudiamo qua con la distinzione tra libri da uomini e donne, altrimenti entra la Tedesco e mi prende a schiaffi. Andiamo a Roma da Robert. Pronto, Robert? Pronto! Ciao! Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Scusami, è Robert o Roberto? No, Robert. Proprio Robert. Perché sì. Sei? No, sono italiano, è una stravaganza dei miei genitori, hanno voluto chiamarmi così. Così? Hanno detto, no, guarda, Roberto no, Robert. Sì, penso che mio fratello si chiama Jonathan. Ah, ok, quindi proprio una roba di famiglia. Senti, dimmi, tu ce l'hai sotto mano il libro che hai riletto più volte? Sì, sì. Che cos'è? Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo. Cioè, quindi un libro molto recente. Sì, è un libro recente. Un libro che per chi non lo conoscesse, non è un romanzo, giusto? Sono piccoli stralci di momenti piacevoli della vita di una persona, giusto? Esattamente, sì, tutto il romanzo va letto proprio, cioè tutta questa raccolta di racconti va letta con questa luce. Sono poi anche aneddoti di poche righe, molti, per cui... Robert, visto che tra pochi secondi abbiamo la borsa, leggimene uno breve che ti è piaciuto particolarmente. Che ne so, per esempio questo: e anche quando mi sveglio in un posto che non è casa mia, quell'attimo in cui non capisco ancora dove sono, e anche quando poi lo capisco. Oppure, per esempio... Era finita qua. Dammene un altro, dai, che così tanto tempo ce ne abbiamo. Sì, prima di uscire di casa spengo l'ultima luce quando sono ormai arrivato vicinissimo alla porta, e ci sono quei 2 secondi di buio improvviso in cui le mani cercano a tentoni la porta, la toccano, si spostano verso la serratura, cercano il punto esatto dove infilare la chiave e poi finalmente apro la porta e ritorna la luce dall'esterno. Allora, questo era Francesco Piccolo, momenti di trascurabile felicità, letti però da Robert da Roma. Grazie mille, Robert. Grazie a te. Ciao, buona giornata. 800 24 0024, la borsa e poi Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E sto qui. Nella foto di oggi invece siamo in un locale. In un locale questa è proprio una di quelle foto che mi piacciono, perché sono piene di informazioni e di storie. Allora, innanzitutto siamo in un locale dove si beve birra, e quello passi per un locale, ma soprattutto si fuma. Quindi non siamo in Italia. Oppure siamo in Italia prima di 5 anni fa, quando è entrata in vigore la legge. Quando era? Non si poteva più fumare nei locali. Ci sono un sacco di persone, tutte che hanno più o meno un tratto comune. Cioè, sono tutte abbastanza corpulente, nel senso che sono belli massicci, soprattutto uomini, tranne una donna in primissimo piano con i capelli biondi. Tutti hanno su dei giubbotti di pelle, sono tutti vestiti di nero e hanno proprio la faccia da biker. Insomma, ci metti un secondo a capirlo. Sulle maniche dei giubbotti hanno anche una scritta comune a tutti che dice tuoni e fulmini. È una roba a metà strada tra la folgore e l'andare in motocicletta. E in fondo c'è un cartello con sopra la scritta che svela l'arcano: Slovenia. Cristiano Bucaioni, 35 anni, Lubiana, 5 febbraio 2011, con i tuoni e fulmini ad un party dei Five Starters, con i più importanti gruppi 1%. Io sono qui. Guarda Cristiano, ho capito la metà di quello che hai detto, però è come se fossi lì con te. Tuoni e fulmini, Five Starter e 1%. Credo no, siano dei libri forse, dei libri anche quelli da rileggere. Allora, io sono l'unico uomo al mondo ad avere letto L'uomo che sussurrava ai cavalli fino alla fine, ma un motivo c'è, me l'ha regalato la mia ragazza e quindi ho dovuto. A questo proposito siamo risaliti all'autore, non è una donna, è un uomo, si chiama Nicholas Evans ed è l'autore di, qua mi dice, autore di diversi best seller, dice Wikipedia, non so quali siano. E invece la micro trama L'uomo che sussurrava ai cavalli è un romanzo scritto nel 95, racconta l'esperienza di una donna di nome Annie, di sua figlia Grace e di un uomo di nome Tom Booker, che probabilmente è l'uomo che sussurrava ai cavalli, immagino. Ho appena riletto Anna Karenina di Tolstoi dopo anni, bellissima, chiaramente Anna Karenina da donna, e infatti è Margherita. Marco Valdo, che spettacolo, letto e riletto, ci sono proprio affezionato. Milena, ogni primo Natale, ogni giorno prima di Natale rileggo Il Velocifero di Luigi Santucci. Ciao Mario, non sappiamo chi sia Luigi Santucci, tantomeno Il Velocifero. Matteo, non ho mai riletto un libro, è brutto. Massimo D'Alegnano? Boh, Massimo, vedi tu. Ho letto L'uomo che sussurrava i cavalli, mi è piaciuto. Oddio, sono una donna e non lo sapevo. Ciao Stefano. Stefano, infatti forse no, forse sei l'editor di Nicholas, quello lì. Mai letto un libro per intero per il piacere di farlo. Quindi mi domando quali siano i libri che hai letto per intero e perché lo hai fatto. Poi altri libri. Ho letto da ragazzino almeno 5 volte Il culo di Sacchi di Gene Gnocchi, un libro mitico sui mondiali del 94. Ecco, questo è un libro da maschi. Stiamo dando veramente una sorta di mappatura dei lettori italiani che è abbastanza disarmante, ma come dice il mio amico Alberto, d'altra parte l'editoria è salvata dalle fidanzate tristi. Andiamo a Novara, da Graziella. Pronto Graziella? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Matteo. A Matteo, scusa. Quindi hai sbagliato numero, quindi probabilmente. Vuoi mettere giù? No, ho sbagliato numero. Allora, quali libri hai letto e riletto? Allora, io ho letto sul mio comodino, quindi lo rileggo spessissimo, Memorie di Adriana della Iorsenare, oh. Che è un libro, insomma, che quello è da uomo o da donna quel libro? Ma secondo me, saprei dirti, però ti posso dire, è scritto da una donna molto particolare, peraltro. Tu ne sai un pezzetto a memoria addirittura, Graziella. Guarda, un pezzetto a memoria perché è una frase che mi rimane molto impressa, io faccio politica, la uso spessissimo, e quando devo fare qualche... Aspetta un secondo, prima di partire vorrei proprio annunciarla. Prima di partire però vorrei capire, tu sei una politica di mestiere, Graziella? No, lo faccio come secondo mestiere, nel senso non lo faccio come mestiere, lo faccio come passione, scusa, la politica si dovrebbe fare così, No. Beh, però tu mi insegni che da un certo punto in avanti diventa la professione, no? Lo so, però... E quindi tu la usi quando questa frase? Guarda, che stai per... È una frase che è molto semplice, che il senso è questo, una persona si rivolge ad Adriano e lui non risponde, sì. Lei lo guarda e gli dice: se non hai tempo per ascoltare non hai neanche tempo per regnare. Quindi tu questa la usi... Sì, perché secondo me l'ascolto è fondamentale, nel senso che, vabbè, a parte tantissime altre citazioni che però mi spiace, ce l'ho tutte sottolineate. No, ma questa va benissimo perché già è abbastanza chiaro. Ma vorrei capire, la usi per affrontare quale argomento questo pezzo? Ah sì, soprattutto quando ci sono degli argomenti, tipo delle riunioni dove ci sono da prendere delle decisioni, eccetera, oppure da illustrare dei problemi, eccetera. Una delle cose che io dico spessissimo è proprio questa frase, perché comunque l'ascolto in politica è fondamentale. Certo, Graziella, dimmi per quale partito stai? Io per il Partito Democratico. Beh, lo dici come se fosse la cosa più naturale del mondo, però ce ne sono almeno 15 di partiti in Italia. Graziella, grazie mille, ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, da bambino ho letto 4 volte Gian Burrasca, da grande 3 volte i 7 libri di Harry Potter, ed ora la quarta volta in inglese. Ciao Fabio. Scusami, 3 volte i 7 libri fa 21. Cioè, tu hai letto 21 libri in 3. Forse... No. Beh, Bonini mi suggerisce che il titolo è I 7 libri di Harry Potter. Ma neanche io l'ho mai letto Harry Potter. Andiamo a Varese da Ferdinando. Pronto, Ferdinando? Ciao. Ciao, come va? Bene, grazie. Bene, che ho presente per la trasmissione. Ti ringrazio. Qual è il libro che hai letto più volte? Il Tropico del Cancro di Harry Miller. Cioè, hai sotto mano anche il testo? No, perché sono in un parcheggio in questo momento. Senti, allora facciamo così, in 3 parole, per chi non lo conosce, me compreso, dimmi la trama, di che cosa parla Il Tropico del Cancro? Parla della vita di Henry Miller a Parigi, in quella Parigi degli anni del primo Novecento. Che Parigi, che vita. Insomma, diciamo, non mi hai raccontato la trama, mi hai dato il sapore del libro. Esatto, la curiosità per andarlo a leggere. Va bene, ti ringrazio Ferdinando, ciao, buona giornata. Ciao, un'ultima telefonata, ce la facciamo, andiamo ad Asti da Cristina. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, sono appena rientrata dal lavoro. Lo sento che hai una voce un po' provata, Cristina. Si sente la stanchezza della settimana il venerdì, eh? Sì, ma io che grande verità domani. Che ho detto. Anche domani? Sì. Che cosa fai tu per lavorare il sabato? Io sono infermiera, in dialisi. Cioè, al reparto dialisi dell'ospedale? Sì. E quindi chiaramente fai anche la domenica, capita di fare anche la domenica? No, sì, quando sono reperibile, sono fortunate. Ah, giusto. Fortunate. Senti, tu ce l'hai sotto mano il libro che leggi oppure te ne ricordi un pezzo? No, non ce l'ho sotto mano, mi ricordo il senso di un passaggio che per me è diventato fondamentale nella mia vita perché mi aiuta spesso ad affrontare situazioni non sempre facili. Dimmi qual è. Praticamente il protagonista è il messia dei giorni nostri, sì. Dice a Richard Bach che cosa pensa lui della libertà e Richard Bach risponde, come sembra ovvio, la mia libertà finisce dove comincia, cioè io ho il mio perimetro di libertà e l'altro ha il suo perimetro, non bisogna invadere la libertà dell'altro. Sì. Allora questo messia gli fa comparire un vampiro che ha bisogno del suo sangue per sopravvivere. Usta. E Richard Bach dice no, io non te lo do il mio sangue, prendi un animale, prendi qualcun altro, perché è proprio il mio. E allora il messia dice, vedi, ti ho dimostrato che non sempre rispettare il proprio spazio di libertà non fa del male ad altri. Senti, Cristina, perché rileggi questo pezzo? Perché devo salutarti purtroppo, perché rileggi spesso questo libro? Perché quando da adolescente avevo dei problemi e l'unico modo per poter essere serena con me stessa era dire, io cerco di fare il meglio per me. Se l'altro sta male, mi dispiace, ma è perché l'altro sceglie di star male, non perché io gli faccio del male. Cristina, ti ringrazio molto. Prego. Ciao, ciao. Buona giornata. Vorrei concludere con la stessa cosa con cui ho iniziato il programma. Non è lo stesso pezzo, ma è lo stesso libro. Correva, sempre più veloce, più sciolto, col cuore che bussava, ma dall'esterno verso l'interno, come se smaniasse di riconquistare la sua sede. Correva come non aveva mai corso, come nessuno aveva mai corso. E le creste delle colline di rimpetto, annerite e sbavate dal diluvio, balenavano come vivo acciaio ai suoi occhi sgranati e semiciechi. Correva, gli spari e gli urli scemavano, annegavano in un immenso, invalicabile stagno fra lui e i nemici. Correva ancora, ma senza contatto con la terra. Corpo, movimenti, respiro e fatica vanificati. Non finiva di correre. La terra saliva sensibilmente, ma lui sembrava di correre in piano, un piano asciutto, elastico, invitante. Correva con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro. E a un metro da quel muro crollò. Questo invece era il mio libro che ho riletto più volte, È una questione privata, di Beppe Fenoglio. Grazie a Tiziano Bonini per avermi parlato di questo libro, anzi riparlato. Stefano D'Andrea, Viola Bottoni e Paolino Corleoni. Volevo semplicemente chiudere dicendo che Fabio da Mortara mi chiede qual è il libro che citava Graziella da Novara. È Memorie di Adriano. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi?